Cari amiche e cari amici, come annunciato in apertura di trasmissione, abbiamo avuto il piacere di intervistare il maestro Giuseppe Tornatore, quindi ne approfittiamo per rubare qualche minuto alla direttrice dell'Istituto di Cultura Italiano, la dottoressa Federica Bindi. Dottoressa, ci racconti un po', questa è la prima puntata di Bruxellando e vorremmo sapere che cosa bolle in pentola per i prossimi mesi. Come al solito, buonasera, intanto buonasera, grazie, bentornati. Come al solito bollono in pentola un sacco di cose all'istituto. Tra le cose più grandi direi che possiamo ricordare Aldo Cazzullo, Severgnini, la Sacro Gra, ma poi abbiamo anche cose, diciamo, forse meno flamboyante ma ugualmente significative. Abbiamo, a cominciare dalla prossima settimana, che abbiamo uno spettacolo benefico con Fund Europe, abbiamo la settimana della lingua italiana in cui faremo di tutto, dall'italiano alla scienza e alla cultura, all'open day con i bambini. Abbiamo, come al solito, abbiamo un po' di tutto, come al solito cercheremo di interessare il pubblico il più diversificato possibile. Ci sono cambiamenti rispetto alla programmazione dell'anno scorso, oppure nel senso di eventi, oppure continuiamo sulla stessa linea, come film, yoga, lezioni per i bambini, insomma continuiamo sulla stessa film, scia? Il film lunedì c'è sempre, la differenza con l'inizio dell'anno scorso è che, come alla fine l'anno scorso, ormai i film ce li andiamo a cercare sul mercato, quindi cerchiamo di portarvi le novità, cerchiamo di portarvi le cose che non sono mai arrivate qui, e cerchiamo di portarvi i registri, e il resto è tutto uguale, nel senso tutto diverso, cioè non c'è mai un giorno uguale all'altro, una settimana uguale all'altra. Beh, mi sembra essere un ottimo slogan per l'anno che verrà. Dottoressa, noi la ringraziamo, sappiamo che il suo tempo è prezioso, le auguriamo un buon lavoro, ovviamente. Per tutti gli eventi contate anche su Radio Alma e su Bruxellando. Assolutamente, vi aspettiamo sempre, grazie di essere venuti. Grazie a voi per l'invito.